sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Jazz on megahertz. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni a Salpinaz. Direi che negli ultimi anni sono sempre più frequenti le produzioni di inediti storici, di recuperi di registrazioni fatte in tempi lontani e anche più o meno lontani. E anche delle ristampe interessanti. Le ristampe ormai sono moltissime, quindi diventa difficile anche poterle selezionare. E per cui è opportuno parlare di, semplicemente di quelle che hanno rappresentato uno snodo interessante, importante, che mantengono questa importanza anche per l'attuale storia del jazz. Il personaggio del quale è uscito un lavoro, praticamente tutto quello che ha inciso per la Blue Note, è Herbie Nichols, personaggio abbastanza mitico perché ha inciso pochissimi dischi. Molti dei lavori che lui ha scritto non sono stati mai registrati. Tra l'altro Frank Kimbrough, che è scomparso l'anno scorso peraltro, è stato probabilmente il principale ricercatore e interprete dei lavori di Herbie Nichols. Una fondazione ha recuperato anche dalla famiglia tutte le partiture, le ha ordinate. E quindi sono pagine interessanti perché, per esempio, queste sono due registrazioni, erano due dischi usciti poi in un singolo adesso, che del 55, parte una formazione straordinaria perché Al McGibbon al basso e Art Blakey alla batteria. Ma è interessante proprio perché il criterio di composizione che attua, che ricerca, insomma, Herbie Nichols, si avvicina sempre più a schemi e modali, e quindi anche le interpretazioni o le improvvisazioni possono muoversi con una certa agilità, senza tener conto del problema della modalità o della tonalità. Questo è abbastanza, diciamo, precoce come lavoro, perché parlando del 55, sarà poi negli anni successivi che inizierà un risultato più evidente di quelle che saranno le strade diverse di diversi musicisti. Penso ai grandi come Cecil Taylor oppure Ornette Coleman o altri. Ascoltiamo due brani presi appunto da due brani anche piuttosto conosciuti, perlomeno nei limiti del possibile, di questo straordinario pianista compositore. Thank you. registrazione del 55 uscito con la, per l'etichetta Blue Note, una registrazione di Herbie Nichols con Al McGibbon al contrabbasso e Art Blakey alla batteria. E ci sono anche molti inediti, naturalmente, molti dei quali peraltro non aggiungono molto alla storia del jazz, però alcuni sono, o per bellezza propria, per magari la maturità dell'artista nel momento, oppure anche perché rappresentano degli snodi interessanti della carriera di un musicista interessante e importante. primo che ascoltiamo adesso è un inedito uscito dagli archivi di Norman Granz, un inedito di Ella Fitzgerald. Non è certamente la prima volta che escono inediti della Fitzgerald. Qui siamo nel 58, il momento probabilmente più maturo, migliore di questa straordinaria artista. Ed è stata una registrazione dal vivo al Hollywood Bowl con un'orchestra, peraltro, un'orchestra piuttosto ricca, diretta e arrangiata poi da Paul Weston. E i brani sono tutti classici di Berlin, di Irving Berlin. La Fitzgerald aveva già inciso sempre per la Verve le grandi song di questi straordinari musicisti che hanno composto delle melodie, diciamo, immortali. E qui appunto è tutto dedicato a Irving Berlin. Alcune sono famose, altre decisamente no, e anche piuttosto belle. Ne ascoltiamo diversi, ascoltiamo 6 brani presi da questo bellissimo concerto. The sun is you and the stars gone, but the melody lingers on. The night was splendid and the melody seemed the same. Summer will pass away, take your happiness while you may. Beneath the light of the moon we played a love song that ended too soon. The moon descended and I found with the break of dawn you and a song are gone, but the melody lingers on and on and on and on and on. cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm above.

coat. I'm burning with love, my heart's on fire. Flame grows higher, but I can't weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. Snowing the snow in the wind, winds are blowing, but I can't weather the storm, storm, storm. What do I care how much it may storm? 'Cause I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles fall, fall, fall. What do I care if icicles fall? 'Cause I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my coat. Don't need no overcoat. I'm burning with love. My heart's on fire. The flame grows higher, but I can't weather the storm, storm, storm. What do I care how much it may storm? 'Cause I've got my love to keep me warm. Thank you. Listen to the band, don't you get a bubble? As you listen to them play, don't you get a glow? If you step out on the floor, you'll forget your trouble. If you go into your dance, you'll forget your woe. So, come get together. Let the dance floor feel your leather. Step as lightly as a feather. Let yourself go. Come hit the timber. Loosen up and start to limber. Can't you hear that hot marimba? Let yourself go. Let yourself go. Relax and let yourself go. Relax, you've got yourself tied up in a knot. The night is cold, but the music's hot, so come cuddle closer. Don't you dare to answer no, sir. Put your banker, clerk, and grocer. Let yourself go. Let yourself go. Relax and let yourself go. Relax, you've got yourself tied up in a knot. The night is cold, but the music's hot, so cold. Don't you dare to act alone. Put your banker, cloak, and grocer. Let yourself go. Let yourself go. Thank you. Come on in here. Come on in here. Alexander's a ragtime band. Come on in here. Come on in here. He's the best ballet in the land. If you never heard a trumpet blowing before, natural that you want to go to war. It's just the best this band won ever. Oh, my honey, come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man, who's the leader of the band. And if you care to hear the Swanee River, and a ragtime, come on in here, come on in here. Alexander's a ragtime band. Come on in here, come on in here, Alexander. Cool time band, come on in here, come on in here. It's the coolest band in the land. If you never move in here, then you believe I need. It's just the coolest band I've done. My honey love, come on along, come on along. Let me take you to the leader of the band. Come on along, come on along. Listen to this real cool band. And if you care to hear the Swanee River play in cool time. Or if you care to hear the Swanee River play in a ragtime. Questa era Ella Fitzgerald nel 58 con un'orchestra guidata e diretta e arrangiata da Paul Weston, e musiche di Irving Berlin, siamo nel 58, quindi un inedito dell'etichetta Verve che esce quest'anno. Il prossimo è un personaggio particolare, diciamo di nicchia decisamente. Si tratta di Hermeto Pascual, personaggio che è cresciuto, abbastanza, sembra un po' una favola a raccontarlo, però in mezzo all'Amazzonia. Aveva creato una comunità già negli anni 60, una comunità di musicisti, si inventavano strumenti, si suonava insieme, si creava musica con questo gruppo di seguaci, con risultati anche decisamente apprezzabili. Questa musica, o questa fama di questo personaggio, ha raggiunto poi anche New York, interessando Miles Davis, che l'ha voluto negli anni 70, all'inizio degli anni 70, era proprio il momento nel quale Miles Davis cercava stimoli diversi, musicisti diversi, per cercare strade nuove per la sua musica, e quindi per questo è diventato conosciuto Hermeto Pascual. E però poi ha continuato la sua carriera facendo diverse cose interessanti, anche belle, decisamente anche belle. È uscito un inedito che è una registrazione fatta nel 78, che sicuramente è interessante, non aggiunge molto di più a quanto già si conosceva di Pascual. Però ho scelto un brano breve, insomma, comunque per piano solo. Non è frequente sentirlo nelle registrazioni, quantomeno nei dischi, col piano solo, ed è interessante, ascoltiamolo. Thank you. È un mondo musicale piuttosto stralunato questo di Ermeto Pasquale, ma sicuramente interessante. Il disco che, appunto, dal quale è preso questo piccolo brano in piano solo è intitolato Planetario da Gavea ed è comunque una registrazione di un concerto, quindi una registrazione dal vivo. E l'ultimo disco dal quale ascolteremo una parte di l'inizio, diciamo, è un lavoro molto interessante a mio avviso, è di Freddie Hubbard, interessante perché è del 72, è il momento di maggiore maturità probabilmente di Freddie Hubbard, del 73 anzi, e lo fotografa in una situazione dal vivo, con una formazione notevole, interessante, è un musicista che ha avuto una vita troppo breve e purtroppo io ho avuto almeno una sola occasione di ascoltarlo dal vivo e mi ha decisamente impressionato, aveva un suono potente, un suono preciso anche nell'intonazione, un fraseggio molto agile, molto, molto, come dire, legato comunque all'aspetto, diciamo, più tonale, e però è un figlio di una generazione che ha potuto muoversi con la stessa agilità sia nello stile modale che in quello tonale. Gli inizi della sua carriera, per esempio, lo vedono anche affiancato a Ornette Coleman nel famoso Free Jazz, che documento appunto del cosiddetto Free Jazz, diciamo, dell'inizio degli anni 60, e poi la sua carriera poi si lega principalmente proprio a un neo hard bop, però di alto livello, inciso sempre per la Blue Note. Questo disco dal vivo è per l'etichetta We Want Sound ed è registrato a Parigi appunto nel 73. La formazione è, oltre Freddie Hubbard, al tenore è Junior Cook, al piano elettrico George Cable, al basso Ken Binkley e alla batteria Michael Kervin. Ascoltiamo uno dei suoi classici, Skydive, ne ascoltiamo una parte solo perché sono registrazioni molto lunghe che appunto danno anche l'impressione di che cosa significava fare poi un concerto dal vivo, quindi l'interpretazione dei brani, diciamo che i brani erano un pretesto per delle cavalcate infinite nell'assolo. Thank you. Questo era il quartetto di Freddie Hubbard in questo bellissimo inedito registrato a Parigi nel 73. E abbiamo ascoltato l'assolo di Freddie Hubbard, oltre che l'incipit col tema Sky Drive. L'assolo di Freddie Hubbard e quello di Junior Cook, magnifico anche il tenore di Junior Cook. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione potete ascoltare nel nostro sito Radio Città Fuji con la sezione musica playlist, con tutte le indicazioni discografiche e appunto anche le formazioni. Salve a tutti e alla prossima.